fatto esiste è l'amore per un figlio, non si spenge mai come una fiamma dentro. L'amore perfetto esiste, è un sedere, un sogno per una vita senza mai realizzato. L'amore perfetto, l'amore perfetto. Se tu contratta persa, ti saluto ogni giorno e non ti riconosco, tu che mai incontri.